nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 27 ottobre, il sole in regione Sorto alle 6.40 e tramonterà alle 17.01. Potenza dell'ora legale. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Sebastiano Franco. La vendemmia 2019 ha fatto registrare un calo produttivo intorno al 25%, caratterizzata però da una buona qualità dei mosti, anomala invece una serie di tensioni di mercato, soprattutto per quanto riguarda la ribolla gialla. Ne parliamo nel pezzo di apertura, per passare poi alle perplessità di molti operatori del settore, quelli biologici in primis, riguardo il nuovo piano di utilizzo dei fitofarmaci. Continua la carrellata storica sul vino arrivata all'antica Grecia, mentre la rubrica delle piante si occupa della versatilissima Bardana, che ha anche ispirato l'invenzione del velcro. A seguire la figura del maiale nell'ambito della vita rurale di un tempo, per passare poi alla ricetta che ha per base la pasta fresca e gli slicrofi, che arrivano dalla vicina Slovenia. Andamento dei mercati, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Si è chiusa la vendemmia 2019, una vendemmia per certi versi anomala in quanto caratterizzata da tensioni di mercato che hanno condizionato quella che sembrava una favola senza fine per il vigneto chiamato Friuli. Si è iniziato con il caso ribolla gialla. Ne parliamo con Rodolfo Rizzi, che è il presidente di Assoenologi del Friuli Venezia Giulia. Durante la vendemmia è nato un po', come si diceva, questo caso della ribolla gialla, un vitigno che ha dato molte aspettative al vignaiolo friulano, soprattutto per le richieste iniziali che aveva il mercato. Però purtroppo si è dimostrato che ci sono state delle problematiche, soprattutto delle problematiche legate alla programmazione. Quindi abbiamo avuto un impianto notevole di vigneto in Friuli Venezia Giulia e una scarsa richiesta di mercato. Prezzi in caduta libera. Ma i prezzi sono sempre legati alle richieste di mercato ed è logico che qui ci sono state anche delle flessioni che però sono state contenute, anche se sono venute fuori delle notizie non proprio veramente confortanti, ma in realtà i prezzi sono stati un po' rallentati. È nata la divisione tra ribolla di collina e ribolla di pianura. Dobbiamo ricordare che se in Italia la ribolla è stata conosciuta negli anni 90 è stato grazie alla ribolla di collina, perché era lì che era impiantata, quindi sia nei colli che gli orientali hanno permesso ai mercati delle grandi città di poter assaporare di questo vino. Poi è nata, grazie all'intuizione di qualche vignaiolo, è nata l'idea della spumantizzazione, e quindi con la spumantizzazione abbiamo iniziato a fare dei grandi numeri che però ancora non sono degli enormi numeri come potrebbe essere se parliamo di Prosecco, se parliamo di Pinot Grigio. E quindi, come dicevo prima, abbiamo sì impiantato, però il mercato ne richiede attualmente meno di quanto ne produciamo. Sua Maestà, il Prosecco in che acqua naviga? Ma il Prosecco con i 440 milioni di bottiglie oggi sta navigando ancora in acque, diciamo, tranquille, ma soprattutto perché è regolamentato da un consorzio. Il consorzio ne regolamenta sia gli impianti, quindi oggi c'è il blocco degli impianti, ne regolamenta anche la produzione con una parte che viene messa a stoccaggio se il mercato non lo riceve. Quindi questo è un calmiere per quanto riguarda la produzione. Acque più tranquille invece per il Pinot Grigio. Sì, il Pinot Grigio, dobbiamo tener conto che il Triveneto e il Friuli Venezia Giulia assieme fanno l'85% della produzione nazionale, quindi produciamo un prodotto che a livello internazionale è molto riconosciuto. Teniamo presente che solo il 5% viene consumato in Italia, mentre il resto viene consumato all'estero. Anche il Pinot Grigio ha un consorzio, oggi consorzio DOC delle Venezie, che ne tutela produzione e programmazione. E quello che forse manca, che manca sicuramente oggi, se torniamo a per quanto riguarda il discorso della ribolla gialla, oggi in Friuli Venezia Giulia manca un consorzio unico. Un consorzio che potrebbe essere il consorzio DOC Friuli, un consorzio che fa da cappello a tutte le DOC già presenti, ma però riesce a fare sia programmazione, ma soprattutto fare quell'aggregazione tanto richiesta dal mercato. Infine, che fine ha fatto il friulano, l'ex Tokaj, la nostra bandiera dei vini bianchi? Non se ne parla più. Ma purtroppo dopo il cambio del nome e la mancata riuscita del quanto riguardava quell'investimento per il marketing, per il lancio del nome, quindi c'è stato, diciamo, un mezzo flop in questa scelta di programmare, cioè di promuovere il vino friulano, se ne è un po' perso l'identità. Oggi il mercato ne richiede sempre meno e questo è un peccato, perché il friulano potrebbe essere, assieme alla Ribolla Gialla, i due vini bandiera del Friuli Venezia Giulia. Si è appena concluso il periodo di consultazioni per il PAN, ovvero il Piano di Azione Nazionale sull'Uso Sostenibile dei Fitofarmaci. Un piano che solleva più di qualche perplessità in Cristina Micheloni, che ci conduce la rubrica del bio. È stata un'altra occasione persa per dare un futuro all'agricoltura italiana. Infatti il regolamento europeo da cui il PAN discende è tuttora molto ambizioso e molti paesi europei l'hanno utilizzato anche negli anni scorsi, perché noi siamo anche in grave ritardo su questa attività, come la Francia, la Germania, la Danimarca l'hanno già finalizzato e hanno fatto delle scelte precise per indirizzare l'agricoltura non solo verso il biologico, ma in generale verso forme che privilegiano la prevenzione e un approccio agroecologico nella gestione delle colture. Nel nostro caso invece ne è uscito un documento abbastanza sconclusionato, dove hanno messo mano tre ministeri in maniera non coordinata evidentemente, che non ha un filo logico e alla fine cerca di non disturbare nessuno e soprattutto non cerca di disturbare qualcuno evidentemente. Quindi non è una vera scelta, la montagna ha partorito un topolino e per giunta malsano. Che cosa si sarebbe potuto scrivere in questo piano d'azione? Si potrebbe tuttora dare effettiva priorità all'agricoltura biologica e individuare degli obiettivi quantitativi più ambiziosi, quindi mettere delle percentuali ambiziose di riduzione dell'uso dei fitofarmaci dannosi. Si poteva fare questa cosa. Per esempio anche delle fissare delle distanze minime tra i centri abitati, i campi coltivati col biologico e le superfici invece agricole trattate con fitofarmaci di un certo rischio. Non si è voluto nemmeno vietare l'uso dei fitofarmaci dannosi e pericolosi nelle aree protette, nemmeno in ambito urbano, intendo i giardinetti per i bambini, i giardini delle scuole, degli ospedali, piuttosto che i cigli delle strade. Si continuano a poter utilizzare. Ci sono anche delle cose abbastanza incredibili, per esempio chi vende prodotti fitosanitari può allo stesso tempo anche farne la prescrizione, la ricetta per l'utilizzo, è come se il farmacista decidesse tutto da solo quando prescrive un farmaco. Quindi sono molte cose che ci portano a dire che non si è voluto decidere niente, o forse non c'è stata la capacità di decidere qualcosa e di dare un orientamento per i prossimi anni. Quindi si giustifica lo status quo e non si prende nemmeno il primo passo verso questo New Green Deal di cui tanto ci parlano, ma che stentiamo a vedere. Per la rubrica dell'universo vino siamo arrivati all'antica Grecia e alla sua viticoltura. Ne parliamo con il professor Roberto Zironi, che insegna enologia all'Università di Udine e che ci conduce questa rubrica. Il problema, diciamo, dell'antichità abbiamo visto già essere la conservazione del vino. Quindi già in epoca greca vengono a diffondersi due tecniche particolari di produzione del vino. La prima fa riferimento alla produzione di vini ad alta gradazione alcolica, in quanto l'alta gradazione alcolica impedisce o perlomeno rallenta fortemente lo sviluppo dei batteri aceti. Quindi parliamo di vini che avevano una gradazione alcolica comprensiva tra i 16 e i 18 gradi. È evidente che per arrivare a questa alta gradazione alcolica i lieviti, cioè gli agenti della fermentazione, possono trovare delle difficoltà, per cui spesso i vini risultavano anche essere presenti con un certo residuo zuccherino. Il secondo punto riguarda la conservazione del vino dopo la fermentazione. Quindi se la fermentazione avveniva esattamente come abbiamo visto nell'antichità precedente o come avviene anche oggi in Georgia, all'interno, diciamo, di grandi contenitori interrati che venivano chiamati pitoi, la conservazione del vino veniva messa all'interno di anfore in ceramica. Queste anfore ceramiche erano sigillate all'interno con delle resine estratte da piante varie e il vino veniva tappato con dei tappi che potevano anche essere già di sughero. Che cosa avveniva quindi? Che l'ossigeno era molto limitato, per cui non si aveva la possibilità di sviluppo dei batteri acetici, ma queste resine impermeabilizzanti chiaramente conferivano al vino anche dei caratteri aromatici non propri, diciamo, della bevanda, per cui quando si andava ad diluire questo vino risultava essere sufficientemente aromatizzato, analogamente a quanto avviene ancora oggi in alcune produzioni greche che vanno sotto il nome di rezzina. La diluizione avveniva poi quindi con acqua, eventualmente aggiunta di miele ed eventualmente aggiunta di altre erbe officinali. Possiamo dire che i greci tendenzialmente bevevano una sorta di vermouth. In antico veniva chiamata anche risanatutto e ispirato l'invenzione del velcro e la bardana, pianta speciale che ci illustra oggi Antonino Danelutto. Chi poteva mai immaginare che i capolini maturi della bardana avrebbero offerto lo spunto per l'invenzione del velcro, uno dei più diffusi e pratici sistemi di chiusura a strappo? Il merito va ad un ingegnere svizzero, Georges de Mestral, che durante una passeggiata osservò come tali capolini, grazie alle squame uncinate e rigide, si attaccassero tenacemente ai suoi vestiti e al pelo del suo cane. Ci pensò su a lungo. Dopo varie sperimentazioni, verso la fine degli anni 50 del secolo scorso, il velcro ottenne il brevetto ed entrò in commercio. E pensare che da ragazzini ci si divertiva a lanciare i capolini della bardana sugli abiti dei compagni, ignorando quale tesoro fosse celato in quel gioco. La bardana, nome scientifico Arxium lappa, in friulano bardane o lavach di Lacais, è una pianta biennale presente quasi ovunque nella nostra regione. La si incontra nelle radure boschive, negli ambienti ruderali, ai bordi delle strade, in luoghi incolti. Nel primo anno di vegetazione si formano solamente le foglie basali lunghe anche 50 cm che hanno il picciolo ripieno di midollo e la lamina ovato coriforme a margine spesso ondulato, verde di sopra e bianco ragnatelosa di sotto. Nel secondo anno spunta il fusto alto fino a 1,5 m, ramificato e peloso, con le foglie cauline più piccole e sessili. I fiori sono purpurei e da luglio a settembre formano capolini all'apice dei rami. Hanno un diametro di 3-4 cm e sono circondati da squame verdi aventi la punta ricurva ad uncino. Il frutto è un achenio scuro dotato di un pappo a setole brevi. In cucina la radice carnosa fresca ha svariate utilizzazioni. Più comunemente viene lessata e condita con sale, olio e aceto. Altrettanto gustose sono le foglie giovani impiegate in minestre oppure lessate assieme ai loro piccioli decorticati e condite a piacere. Ma la bardana è più conosciuta per il suo uso fitoterapeutico, la cui droga è costituita dalla radice raccolta nell'autunno del primo anno o nella primavera successiva. Tradizionalmente è considerata soprattutto diuretica, depurativa, stimolante della funzione epatica, antireumatica ed ipoglicemizzante. Per uso esterno il succo è efficace contro seborrea, forfora, acne e crosta lattea. È anche antisettico su ferite e piaghe. Gli effetti medicinali della bardana sono conosciuti fin dall'antichità e nel Medioevo era talmente tenuta in considerazione tanto da essere chiamata risana tutto. Non meno incisivo il detto: se la vecchiaia vuoi tener lontana, fatti amiche cicoria e bardana. Si diceva anche che mangiare bardana farebbe aumentare la memoria e che la radice avrebbe il potere di liberare dal malocchio. Vita da porci, così è intitolato il suo contributo di oggi Adriano Del Fabbro, che ci cura la rubrica del maiale, dell'universo maiale. Nel porcile, giorno dopo giorno, cresceva la scorta cibaria di un'annata intera. Il porco o la scrofa venivano perciò affidati alle cure e alla sensibilità delle donne di casa. Erano poche le famiglie che mantenevano più di un capo. Chi aveva la porcite o la scrove, alla fine dell'anno la portava a ingravidare dal maschio che veniva allevato da poche aziende. Dopo 3 mesi, 3 settimane e 3 giorni nascevano una decina circa di porcellini. La covata doveva essere sorvegliata poiché non era raro che la scrofa si rivoltasse contro i piccoli o quando erano troppi rispetto ai capezzoli disponibili o quando qualcuno di essi dava già accenno di dentatura che poteva dar fastidio alla madre. Appena nati, meglio se in luna calante, i suinetti venivano castrati dal chialciumit per renderli più docili e maggiormente predisposti all'ingrasso. Anche i canini venivano estirpati poiché nel maiale si tratta di denti a crescita continua. Una volta raggiunta l'età dell'indipendenza e un peso di circa 20 kg, i piccoli venivano allontanati dalla madre e venduti ad altre famiglie, salvo quello che si decideva di allevare in proprio. La casa del maiale era il porcile, un fabbricato di pochi metri quadrati che stava lontano dall'abitazione per evitare gli odori fastidiosi e la frequentazione degli insetti, soprattutto durante l'estate. Il pavimento doveva essere sempre asciutto per mantenere sane le zampe del porco. Nel suo truogolo di pietra o di cemento finivano tutti gli scarti dell'orto e del frutteto di casa. Pomi caduti dagli alberi, patate cotte, foglie di verze, rape, carote, cetrioli, zucche, zucchini e anche molto altro. Il nutrimento era accurato ma non speciale, se si eccettuano le foglie dell'olmo spruzzate di crusca, addirittura, scriveva Chino Ermacora nel 1942. Era compito delle donne o dei ragazzi quello di recuperare giornalmente il siero della latteria in dei grandi bidoni, appena finita la lavorazione del formaggio. Una volta portato a casa veniva distribuito da solo o serviva per fare il pastone miscelandolo con della semola, crusca o comunque cereali di scarto macinati. Dal punto di vista sanitario l'incubo dei contadini erano il marrossino e la peste suina che potevano provocare la morte del pulcit, una vera disgrazia. I casi dell'infezione però per fortuna erano assai rari. Il vero momento delle coccole, oltre a quello alimentare ripetuto più volte al giorno, era quello settimanale della pulizia del porcile. Chi lo accudiva entrava nel porcile, parlava col suino, lo salutava, controllava il suo stato di salute e lo spessore del grasso, lo accarezzava, mai slontanarsi dal pulcit, era la regola. E questo contatto quotidiano contribuiva a costruire un rapporto di vera e propria simpatia tra gli animali e l'uomo, e questo rapporto che subiva una rottura traumatica al momento della macellazione. La pasta fresca è sempre stata la base di grandi ricette, ricette importanti che durano nel tempo come gli schlikrofi, che come ci dice oggi Roberto Zottar arrivano dalla slovena Idria. La pasta fresca con le sue moltissime declinazioni regionali è l'emblema della cucina italiana. La fantasia e la disponibilità di prodotti dei territori con il complemento dei più svariati condimenti hanno arricchito la pasta fresca con ripieni dolci o salati, di grasso, di magro, in un trionfo di sapori, ravioli, pansotti, cappelletti, tortelli e tortelloni. Questi nel passato erano il piatto delle festività importanti che prevedevano una condivisione sociale, contrappunto anche alla povertà della tavola di ogni giorno. Nella nostra regione, man mano che dalla pianura saliamo in montagna, il ripieno della pasta si arricchisce di erbe spontanee, bacche e semi. Kansun Siei, Kansoi, Kainchi, Krafuchins, Krofen, Krafi, Schlutzkrapfen, Kjalsons, Chalsons sono varianti terminologiche che identificano un primo piatto molto sostanzioso che cambia nome e ripieno a seconda delle zone, ma con l'elemento distintivo dell'assenza di carne nella farcitura anche per l'indigenza di sempre delle genti di montagna. L'impasto prevede l'utilizzo di solo acqua e farina o con l'aggiunta di uova o anche di patate. Le forme sono diverse, una mezzaluna per i chialsons, una mezzaluna pizzicata per i gepikta krofn di Sappada, una sfera per i macarons cui miei, un quadrato per i rafioi e i ravioi di Redrep e anche un bastoncino per i maneghi. Il ripieno o pistun costituisce forse l'aspetto più tipico, condizionato alla disponibilità effettiva delle dispense. I chialcions carnici, i più noti, sono caratterizzati da un sapore dissonante e decisamente riconoscibile nella sua speziata eccentricità e figlio di un uso prezioso di ingredienti di recupero. Sul Carso, nel Coglio, a Gorizia, anche se la loro vera origine è il villaggio minerario di Idria, si cucinano gli schlikrofi, fagottini dal nome difficile, ripieni di patate, lardo e formaggio, con una forma tipica che ricorda un cappello di un periodo napoleonico. Per realizzarli preparate una sfoglia con 2 etti di farina e 2 uova. Per il ripieno fate sudare mezza cipolla tritata con 50 g di lardo, aggiungete 400 g di patate lessate e passate nello schiacciapatate, un tuorlo, 2 cucchiai di latteria grattugiato, erba cipollina tagliuzzata. Stendete la pasta, allineate palline di ripieno e ripiegate la sfoglia per richiuderle, pressando con 2 dita tra una pallina e l'altra. Tagliate la pasta formando dei ravioli e premete leggermente la parte superiore per ottenere il tipico aspetto degli schlikrofi. Cuocete in acqua bollente salata e condite con sugo d'arrosto. Buon appetito! E con Amos D'Antoni ora l'andamento dei mercati agricoli. Andamento con scambi incerti e prezzi stabili. Venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 15,90 e 16,10 euro il quintale IVA esclusa, la soia tra 32,80 e 33,30, l'orzo con peso specifico 60,63 tra 15,30 e 15,80, il frumento tra 17,20 e 17,50. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 70 centesimi il quintale e la soia è aumentata di 50 centesimi. Mercato fiacco nel comparto dei bovini da macello, con le vacche fine carriera di prima qualità, pagate a peso morto tra 2,40 e 2,90 euro al chilo IVA esclusa e quelli di seconda tra 1,80 e 2,40. Molto sofferente quello dei vitelli da ristallo, con i blueberry a maschi quotati tra 6,20 e 6,60 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,40 e 4,80, i frisoni tra 1,60 e 2 euro e i bruni tra 1,70 e 1,90. Toni con tendenze progressive, invece, nel comparto suinicolo, con il valore della tonzola di 30 kg franco partenza fissato a 2,58 euro al chilo IVA esclusa e i grassi da macello in aumento a 1,58. Domanda sempre sostenuta nel comparto caseario, con il prezzo del montaggio fresco compreso tra 5,95 e 6,25 euro al chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 7,10 e 7,40, lo stagionato 12-15 mesi tra 7,80 e 8,20, con marchio di qualità tra 8,80 e 9,20. Infine, tendenze diversificate nel mercato degli avicunicoli, con i poli a terra pagati tra 1,06 e 1,08 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,59 e 1,61, le faraone tra 2,20 e 2,24, le anatre tra 2,45 e 2,49, i conigli oltre 2,5 kg quotati dal CUN di Verona in aumento tra 2,59 e 2,65, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 13,50 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Ottobre si sta concludendo con temperature molto elevate. Nell'ultima settimana abbiamo registrato valori elevati per il periodo, con massime che hanno toccato i 26-27 gradi sulla pianura, oltre 23 gradi registrati anche a Tarvisio e in quota in Carnia. I valori medi giornalieri sono stati anche di 9 gradi sopra la norma. Il mare ha ancora una temperatura media di 20 gradi, misurata a 2 metri di profondità, valori che sono da record quando si effettuano le misurazioni, fino a 4 gradi sopra la media nel settore occidentale del Golfo e della laguna di Marano e Grado, zone che con i fondali più ridotti generalmente iniziano a raffreddarsi prima rispetto al mare prospiciente Trieste e Istria, che presenta invece maggiore capacità termica. L'anticiclone con aria molto mite è ancora presente oggi sopra le Alpi e l'Europa centro-orientale e garantirà una bella giornata di sole, con valori massimi ancora decisamente sopra i 20 gradi. In serata potrebbero formarsi in pianura foschie o nebbie, specie nel pordenonese. Domani la situazione inizierà a cambiare con l'avvicinamento alle Alpi di aria più fredda, che provocherà un progressivo aumento della nuvolosità stratificata alle quote medio-alte nel corso della giornata, mentre sulla pianura sarà più probabile la formazione di foschie o nebbie. Martedì è previsto un peggioramento, con cielo in prevalenza coperto, piogge sparse ed intermittenti, in genere moderate, più abbondanti probabilmente sulla costa. Dal pomeriggio inizierà a soffiare bora, moderata in pianura, forte sulla costa, con raffiche che in serata saranno anche attorno a 100 km orari. Mentre sulle Alpi Giulie potrebbe fare la comparsa un po' di neve fino a 1000 metri circa, con temperature in calo dappertutto. Mercoledì al mattino nuvolosità residua, poi deciso miglioramento, con cielo poco nuvoloso in giornata. Soffierà ancora forte la bora, specie sulla costa e al mattino. Farà freddo con massime fra 12 e 15 gradi e nella notte successiva sarà poco sopra lo zero in pianura, sotto zero in montagna, probabilmente anche a fondo valle. Giovedì e venerdì, giorno dei Santi, dovrebbe essere soleggiato, freddo di notte, bora in calo e durante il giorno le temperature si riprenderanno un po'. Sabato probabilmente tornerà a peggiorare con pioggia su pianura e costa e neve a 1400 metri circa sui monti. Domenica sembra invece tornare il sole, ma conviene tenersi aggiornati sull'evoluzione. Termina qui la puntata, anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano: quanti corvaz venin giù ad ore, al ben fret un evore, ovvero quando i corvi scendono presto a valle vuol dire che verrà tanto freddo. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Sebastiano Franco e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.